noi stiamo facendo un lavoro di inchiesta, in particolare con lo strumento dei video ormai da 3 anni. Abbiamo raccontato tante situazioni della nostra città e del nostro territorio metropolitano, da Via Saffia, Interporto, passando per la musica neomelodica, il Pilastro, la situazione del DLF con questo imprenditore sotto processo per un reato con l'aggravante mafiosa. Abbiamo raccontato la ristorazione bolognese, le sue ombre, con un'inchiesta uscita a dicembre che adesso rilanciamo su tutti i canali social da oggi, e dopo 3 anni ci siamo insomma resi conto che ci serve un sostegno economico, perché il lavoro è tanto e dispendioso anche proprio appunto dal punto di vista economico. C'è il lavoro di ricerca con dei centinaia di visure che facciamo per appunto andare a costruire il racconto, ci sono le spese legali connesse al lavoro, l'assicurazione che stiamo attivando per coprirci da appunto i danni che qualcuno ci potrebbe chiedere, e quindi abbiamo deciso di fare un appello alla cittadinanza, alla città, chiedendo un sostegno per appunto il lavoro di racconto che ormai da 3 anni stiamo portando avanti. Voi fate proprio un giornalismo di inchiesta, e questo, come dicevi, è costoso per varie ragioni, e quindi appunto c'è la possibilità per tutte e tutti di sottoscrivere, di partecipare a questa raccolta fondi, che è anche un modo per coinvolgere, no, la cittadinanza. Assolutamente, questo ha una doppia valenza, questo lavoro: da un lato sicuramente aiutarci nel sostenere alcune spese, perché poi ovviamente altre sono comunque a carico nostro, a carico dell'Associazione Libera Bologna, e soprattutto, visto che l'abbiamo lanciato e lo stiamo lanciando in concomitanza con l'uscita su internet e sui social della nostra nuova inchiesta sulla ristorazione bolognese, è un modo per attirare l'attenzione di ancora più persone, chiedendo un sostegno ovviamente, ma anche chiamandole al nostro fianco per dire: siamo in tante che vogliamo parlare di mafia, vogliamo parlare di illegalità, vogliamo parlare delle situazioni spesso nascoste sotto traccia, ma che pongono qualche domanda, che creano qualche dubbio in quello che si muove nella nostra città. E quindi è un modo per chiedere sostegno, coinvolgere ed essere sempre di più, portare avanti questo lavoro. Qual è il vostro obiettivo? Noi partiamo con un obiettivo di 4.000 euro come primo passo. Vorremmo raggiungere però gli 8.000 per avere, diciamo, coperti i principali costi, a parte il nostro lavoro, che è soprattutto a carico dell'associazione, e c'è solo una piccola quota del crowdfunding, ma appunto 8.000 euro che copra le spese legali, che copra le spese delle visure, che copra il lavoro del videomaker che ci sta aiutando in queste settimane. Questo è il primo step, e poi, se dovesse andare proprio benissimo, l'obiettivo finale 15.000 euro, in modo da poter avere i fondi per realizzare non una ma 2 inchieste per quest'anno e il prossimo. Questo già ci fa capire che comunque gli affari della criminalità organizzata, delle mafie nel nostro territorio, continuano, se c'è bisogno di fare anche, no, nuove inchieste. Assolutamente, sì, noi è da anni che riceviamo segnalazioni su cui poi costruiamo il lavoro di racconto delle mafie del nostro territorio, quindi diciamo, mi viene da dire che ogni anno, quando ci mettiamo a tavolino con la mia collega Sofia Verdacchione e decidiamo su quale pista lavorare, abbiamo l'imbarazzo della scelta, ecco, per il numero di situazioni che ci sono state segnalate su cui poter appunto strappare il velo. A proposito di veli strappati, la vostra ultima inchiesta, La febbre del cibo, che appunto indaga le ombre della ristorazione bolognese, ha sollevato un grande clamore in città. Anche le istituzioni, in seguito alla prima proiezione, diciamo, hanno reagito. Avete appunto toccato un tema che forse non era troppo battuto e che ha svelato appunto gli affari in un settore che si pensava forse non fosse toccato? Se si pensava che non fosse toccato, era sicuramente una grande illusione. Buona parte dell'inchiesta che abbiamo fatto è mettere insieme i casi che si sono succeduti in questi ultimi anni nel mondo della ristorazione bolognese. Noi abbiamo fatto in una prima parte un lavoro di raccolta e di messa a sistema, ed è chiaro che quel puntino che uno vede su un giornale, oppure nascosto magari su internet, di un ristorante sequestrato o di un fatto magari di intimidazione di un altro in un altro ristorante, ecco, o dinamiche e illegalità legate al lavoro, tutti puntini sparsi che noi con il nostro lavoro di inchiesta abbiamo invece provato a unire e mettere dentro un unico lavoro. Ed ecco che quindi il quadro che emerge è preoccupante, perché si vedono tutti gli interessi della criminalità organizzata e non in un settore strategico per Bologna, che muove all'anno milioni e milioni di euro. Oltre a questa prima parte di lavoro, l'altra parte di lavoro è stata porre delle domande su, in particolare, un paio di realtà imprenditoriali territoriali della nostra città molto conosciute, che per la nostra sensibilità meritano appunto di essere un minimo indagate, e lo facciamo chiedendo la cittadinanza, portando nella videoinchiesta gli elementi che abbiamo raccolti e che ci fanno dire, vediamo qual è la situazione reale di queste situazioni, e lo facciamo appunto in dialogo con chi vedrà la nostra inchiesta e con tutta la cittadinanza di Bologna. Siamo contenti dell'attenzione che abbiamo suscitato, perché davvero è un settore importante che dal nostro punto di vista non possiamo permettere che sia in mano di interessi e che non sia in preda di dinamiche anche economiche e sociali che creano meccanismi di esclusione da parte di tanti soggetti imprenditoriali che invece portano avanti il proprio lavoro in modo onesto e senza grandi capitali dietro. Proprio questa sera ci sarà la possibilità di appunto vedere l'inchiesta nella sua versione definitiva, insomma. Sì, esattamente, stasera alle 19 al Circolo Alce Ritmo Lento in via San Donato 149 ci troveremo a proiettare la versione definitiva e a parlarne con te, Vincenzo Branà, e la mia collega Sofia Nardacchione. Poi da domani sarà su YouTube e tutti la potranno vedere.